Giovedì, seconda settimana. Vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio, che dichiara luce, tessi la trama del giorno. Accogli il nostro canto nella quiete del vespro. Ecco, il sole scompare all'estremo orizzonte. Scende l'ombra e il silenzio sulle fatiche umane. Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto. Te la voce proclami, o Dio trino ed unico. Te canti il nostro cuore, te adori il nostro spirito. Amen. Prima antifona. Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo. Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna. E dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte. I re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo. Seconda antifona. Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione. Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti. Il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione. Terza antifona. Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esaltate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi tutti che abitate in essi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. Lettura breve. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Responsorio breve. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In pascoli erbosi mi fa riposare, non manco di nulla. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Antifona al Magnificat. Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Intercessioni. Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale. E pieni di speranza, chiediamo: benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore. Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa e il nostro Vescovo. Dona loro serenità e salute. Benedici la tua Chiesa, Signore. Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace. Benedici la tua Chiesa, Signore. Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa. Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza. Benedici la tua Chiesa, Signore. Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele. Benedici la tua Chiesa, Signore. Dona il riposo eterno ai nostri defunti. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi. Benedici la tua Chiesa, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai tuoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedizione finale. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.